Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia. Allora, la notizia, ve lo dico subito, sta arrivando da San Siro, dove alla mezz'ora del secondo tempo il Milan sta perdendo 1-0 con il Bologna. Il gol di Ramirez dopo 26 minuti di gioco su palla rubata da Diamanti a Van Bommel in versione gatto di marmo. Ma gatti di marmo erano tutti milanisti, o sono tutti milanisti. Certamente un primo tempo orrendo quello del Milan, Ibrahimovic compreso, peggiore in campo. All'11esimo è entrato Cassano al posto di Seedorf, che da trequartista non funziona. Milan un po' più vivo, ma che non riesce a a segnare il gol quantomeno del pareggio. Azione contestata al 14esimo con Cassano che pesca Ibrahimovic in fuorigioco che non c'è. Ibra segna su pallonetto perché Portanova salva oltre la linea, ma il gioco era in quell'occasione fermo e da qui nasceranno le inevitabili polemiche. Questa è la notizia della giornata che sta maturando a San Siro, però c'è da vergognarsi per l'ennesima volta. Vi ricordate, una settimana fa il nostro calcio era fermo per onorare lo shock di tutti noi per la morte di Morosini. Oggi a Genova non si può terminare la partita perché gli ultra comandano e decidono loro quando una partita si gioca oppure no. C'era Genoa-Siena, con il Genoa sotto 4-0 con il Siena di Sannino, con i gol di Brienza a destro, di nuovo Brienza e Giorgi. Un Genoa improponibile, un Genoa onestamente improponibile, ma al nono gli ultra hanno interrotto la partita. Contestazione, fumogeni in campo, giocatori che erano dalla parte opposta rispetto ai tifosi imbestialiti. Marco Rossi, capitano del Genoa, che è scortato dalla polizia, è andato a provare a trattare con costoro, perché dalle nostre parti con costoro si tratta. Però hanno detto no, non si gioca, sono Tagliavento ha rimandato tutti negli spogliatoi, partita sospesa, e io personalmente mi vergogno tantissimo come giornalista, come operatore, come appassionato di sport, come conduttore di questa trasmissione, come italiano, come tutto quello che volete, non so voi. 800 24 00 24, mi vergogno dopo aver visto ieri sera il comportamento e l'atteggiamento in tutt'altro contesto della gente del Barcellona che ha perso in casa con Real Madrid, ma mi vergogno dopo aver visto ogni altra partita di ogni altro campionato in ogni altro angolo del mondo. Tant'è, vi racconteremo come va a finire questa giornata, che a questo punto propone nel pomeriggio soltanto tre partite. Cesena-Palermo è sul 2-2, mentre il Lecce sta strappando un punto d'oro e meritatissimo all'Olimpico contro la Lazio. Vi ricordo invece che il Milan è sotto 1-0 con il Bologna, stasera la Juventus. Non dico che abbia il match ball perché è molto presto, però può allungare certamente le mani verso lo scudetto, eventualmente battendo la Roma. 800 24 00 24, tanti temi di cui discutere fino alle 19. Non c'è solo il calcio in questo weekend densissimo di appuntamenti. Abbiamo visto il Gran Premio del Bahrain in quest'isola protetta dall'esercito, perché onestamente anche lì il clima è stato surreale per tutto il weekend. Vince per la prima volta in questa stagione Sebastian Vettel, che ieri aveva stampato per la prima volta in questa stagione la pole position davanti ai due sorprendenti Lotus di Raikkonen e Grosjean. Quarto Webber, quinto Rosberg, sesto di resta sulla Force India, settimo Alonso, prima Ferrari, ottavo Hamilton, nono Massa, decimo Schumacher. Prima di parlarne con Mario Poltronieri vi faccio sentire cosa ha detto Alonso su questa gara di nuovo in salita per la Ferrari. Beh, un po' meglio penso, abbiamo finito davanti alle due McLaren, se ce lo dicono ieri sicuramente non ci credevamo, quindi alla fine bene, penso settimo, sesto quando Rosberg avrà penalty, penso, quindi sono buoni punti. Le Lotus, che non avevano tantissimi punti in campionato, hanno fatto secondo, terzo, quindi tutto sommato ancora una gara che penso che abbiamo riuscito a salvare dei punti. Adesso manca solo da Barcellona in poi cercare noi di fare i più punti possibile, non aspettare dei risultati strani come ci sono stati sicuramente in queste prime gare, ma non ci saranno sempre così a favore nostro. Questo Fernando Alonso, che prova a trovare gli argomenti da salvare, d'altra parte l'aveva detto ieri, valiamo tra l'ottavo e il dodicesimo posto, cosa che si è grosso modo verificata, puntiamo a qualche punticino e anche lì è riuscito a raccogliere probabilmente il massimo possibile. Intanto vedo le immagini da Genova, dove ci sono ancora i giocatori del Genoa preziosi e un sacco di polizia sul prato di gioco, mentre l'arbitro è tornato negli spogliatoi insieme ai giocatori del Siena perché gli ultra hanno deciso che questa partita non continuerà. Tagliavento e i giocatori del Siena sono negli spogliatoi. Sculli con aria mesta va sotto con le braccia alzate come un bambino colpevole, va ad offrirsi agli insulti degli ultra del Genoa che provano ad entrare in campo, che sono in piedi, vedo un paio di signori vestiti di nero, facilmente identificabili peraltro perché sono lì davanti a tutti alle telecamere, vediamo poi cosa succede a questi signori, sicuramente nulla, che sono arrampicati, sono in piedi sul telone della struttura del tunnel degli spogliatoi, del tunnel mobile degli spogliatoi. Ripeto, mi vergogno profondamente, non so voi. 800 24 00 24. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Ciao. Allora, corsa nel deserto, allora, protetta dall'esercito. Sì, sì, sai, pecunia non ho, no. Purtroppo Eccleston farebbe qualsiasi cosa pur di riuscire a continuare a tenere in piedi la sua baracca multimiliardaria. Sì, l'avrebbe fatti correre anche in Vietnam negli anni 70. Comunque, non facciamo altre polemiche, ne hanno già fatte tante. Diciamo che le squadre tutto sommato non ci volevano correre, quindi almeno loro la fanno bella figura, sì. Sono state costrette. Sì. E, diciamo che è un campionato che, nonostante alcune stranezze, diciamo così, le nuove gomme, le piste non a posto, eccetera, eccetera, sta diventando però divertente, perché ha vinto la prima Button, la seconda Alonso, la terza Raikkonen, la quarta il ritornato Vettel. Ecco, diciamo che in sintesi la prima cosa che si può dire è che Vettel appunto ha dimostrato, col quarto posto anche di Webber, che la Red Bull ha subito recuperato quella situazione critica, quello che noi spereremmo che succedesse alla Ferrari, che anche oggi purtroppo non è successo. Ma soprattutto direi è stata interessante questa corsa della seconda e terza classificata, cioè le due Renault di Raikkonen, campione del mondo 2007, ma che si pensava non dico ripetesse le esibizioni poco soddisfacenti di Schumacher, però era un'incognita, invece ha dimostrato di essere di nuovo fortissimo, abilissimo, di avere un compagno di squadra che è tornato in Formula 1 dopo una stagione non soddisfacente nel 2009 e che ha dato la dimostrazione invece di avere un passo eccezionale. E si potrebbe quasi dire che è stato l'avversario del suo compagno di squadra, infatti hanno fatto secondo e terzo, e questo direi è forse l'indicazione più importante, sì, della corsa, perché dimostra che un nuovo team è entrato sicuramente, dopo la crescita che si era vista nelle altre gare, in questo campionato. Sì. Oggi invece c'è stata la debacle, se così si può dire, della McLaren e della Mercedes. Sì, certo, ne parliamo tra un attimo. Intanto, scusa Mario, ti interrompo per la cronaca, così diamo i risultati in diretta. La Lazio passa sul Lecce al 37esimo, segna di testa Matuzalem, Lazio 1, Lecce 0, gol importante naturalmente sia per il terzo posto che per la lotta salvezza. Dicevi McLaren, che insomma io stesso avevo anche ieri pronosticato come macchina da battere, partivano con il secondo tempo Hamilton e con il quarto tempo Button, è la macchina più regolare tutto sommato in questo avvio di torneo, invece oggi dicevi tu debacle. Purtroppo per loro effettivamente è andata piuttosto male, e dopo Vettel, Raikkonen e Grosjean delle due Lotus, abbiamo poi la seconda della Red Bull, quindi la prima Mercedes è quella di Rosberg, che è quinto, seguito dalla Force India di Paul di Resta e poi da Alonso. Alonso si è detto sicuro della penalizzazione di Rosberg. Ecco, lui si è detto sicuro. Sai, quando dicono vediamo alla fine della gara che cosa fare, ci sono state due situazioni complesse, può anche darsi che gli dia un risultato positivo, cioè nel senso di crescere di un punto, però insomma la sostanza reale è che noi abbiamo degli altri avversari in questo campionato che vanno forte, perché non dimentichiamoci che praticamente diventano cinque con la Lotus le squadre che possono vincere. adesso il campionato ha conferma che è un campionato divertente, vediamo i punteggi con Vettel che è a 53 punti, Hamilton che era a 49, Webber che ne ha 48, a 43 ci sono Button e Alonso e poi a 35 Rosberg. Diciamo quindi che ci sono nello spazio di 10 punti ben 5 piloti, quindi un campionato apprezzissimo. Adesso hanno il tempo di riesaminare la situazione, di aggiornare quello che si può aggiornare e poi quando si correrà in Spagna si capirà veramente quale è il trend di questo campionato, certo, soprattutto per la Ferrari. Certo. Fino adesso diciamo si può essere solo scontenti. L'unica nota. Ma sai, scontenti o contenti, si sapeva delle difficoltà iniziali della Ferrari. E quindi forse è stato salvato il salvabile, forse ha ragione Alonso nel dire questo è il massimo che riusciamo a fare, abbiamo vinto una corsa, siamo riusciti a lottare e a tenere comunque i punti che ci tengono in classifica. È chiaro che adesso devi migliorare in maniera decisa nei Gran Premi europei che sono alle porte, quindi. Ma c'è un problema non emerso tuttora. Ma il cambiamento che è stato fatto facendo arrivare Pat Fry come responsabile per la parte tecnica ha creato una situazione all'interno del team, della squadra, abbastanza difficile tra gli inglesi e gli italiani. Quindi anche questo potrebbe essere un elemento negativo. Sì. Si tratta di vedere se Montezemolo riesce a imporsi, perché fino adesso tutti i suoi appelli non sono stati ascoltati. I risultati di altri in tempi passati. Ecco. Certo. Effettivamente è un campionato comunque divertentissimo, anche se naturalmente non bisogna mettersi lì a fare il conto del cambio delle gomme, sennò è un disastro. Sì, guardare. Grazie Mario. Ci sentiamo alla prossima. A te, arrivederci. Grazie. Grazie a Mario Poltronieri, sono allibito. Siamo nel finale di queste partite. Il Milan al 44esimo del secondo tempo sta sempre perdendo 1-0 con il Bologna. Ibrahimovic in rovesciata è andato vicino al gol, ma è un Milan che non è nemmeno mai riuscito a mettere grandissima pressione, a cambiare ritmo, a mettere pressione sul Bologna in questo finale di partita, pur essendo sotto appunto 1-0, mi sembra un Milan sciolto, spento totalmente. Sono allibito per quanto ho visto e sto vedendo a Marassi. Allora, Siena e Tagliavento sono già a casa, sono andati via. In campo sono rimasti i giocatori, gli ultra lì a contestare, tutta la polizia in campo. Gli ultra, dunque, è andato Marco Rossi, capitano e bandiera del Genoa, a parlare con i tifosi. I tifosi hanno detto: adesso vi togliete la maglietta perché non siete degni di portare e ce le regalate. Allora Marco Rossi gli ha dato retta, naturalmente ha dato ai compagni, sono sfilati la maglia, li stava portando ai tifosi. Scuglia ha detto: no, io non la tolgo. È andato lì a parlare di nuovo con i tifosi, in particolare con quello che era quel tizio vestito tutto di nero e, ripeto, molto facilmente identificabile da chiunque, che era arrampicato in piedi sul tunnel mobile che porta i giocatori negli spogliatoi. Allora, conciliabolo, Marco Rossi, cioè scusate, Sculli con le lacrime agli occhi, io questa maglia non la tolgo, il tifoso che lo abbraccia, lui che si fa abbracciare, una scena da vergogna, ve lo giuro, da diventare rossi di vergogna. Allora, e poi niente, c'è stata questa manfrina delle maglie, andate via umiliati senza magliette, invece no, poi hanno restituito le magliette. Segna Ibrahimovic, 45esimo di gioco, questo è calcio, il resto definitemelo voi perché a me non vengono le parole. 800240024, segna Ibrahimovic al 45esimo di gioco e almeno il Milan riesce ad agguantare il pareggio, cosa che fa in questo momento con Božinov al 45esimo passato da 30 secondi anche il Lecce. Dunque Lazio-Lecce 1-1 e Milan-Bologna 1-1, questi ancora parziali, però sono gol pesantissimi. Vediamo la rete di Božinov, respinta di Marchetti, quindi azione molto convulsa e confusa in area, risolta con un destro dalla corta distanza di Božinov in una mischia rugbistica. Gol molto importante per il Lecce, ma anche per la zona salvezza, perché il Lecce arriva vicinissimo al Genoa nel giorno della sua vergogna. Adesso ci prova Nocerino, 4 minuti di gioco di recupero concessi a San Siro per questo Milan-Bologna raddrizzato in extremis da Ibrahimovic. Sto rivedendo ora il gol, il cross dalla sinistra di Robinho e il tocco molto bello, anzi di Emanuelson, il cross e il tocco molto bello in salto di piatto di Ibra per il gol dell'1-1. Ne avremo da dire in questa domenica calcistica o pseudo calcistica per quanto riguarda Genova. 800 24 00 24. Tanto saluto un grande sportivo come Alberto Cova. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Perdonami questi racconti di cronaca, ma io mi sto vergognando anche oggi dei nostri... Ma io non sto... sento da voi le notizie, senti non solo del paese del Milan, da milanista, ma anche quello che sta succedendo a Genova lo sento da voi perché non sono in collegamento con... No, vabbè, avrai modo di vedere, io immagino. Hai visto invece, commentato per Eurosport, una maratona importante perché si è corsa sulle strade olimpiche oggi. Sì, è corsa stamattina la maratona di Londra che anticipa quello che sarà la grande maratona olimpica del 12 di agosto e devo dire, vabbè, come ormai da tanto tempo e come al solito sempre Kenya, una prestazione veramente grande di Kipsang, forse un pochino al di fuori delle aspettative visto il nome dei partecipanti e visto anche il livello tecnico che offre sempre la maratona di Londra. Tutti si aspettavano, almeno io mi aspettavo una prestazione cronometrica molto importante con quel 2:03 insomma che poteva tremare e invece sì, è sempre una grande prestazione tecnica di Kipsang, però i protagonisti, non che lui non lo fosse, ma quelli che insomma per me potevano essere i veri protagonisti invece sono stati cancellati da questo Kipsang che li ha messi in fila tutti. O hanno giocato a nascondino su quelle strade? No, non credo. No. Non credo perché Kirui è arrivato proprio sulle ginocchia, Mutai che si è fermato prima forse, lui ha giocato un pochino, ma gli altri hanno pagato un attacco veramente... importante, veramente duro che Kipsang ha fatto dal 25esimo al 35esimo chilometro, ha corso 10 chilometri come se fosse in pista e quindi li ha messi un po' tutti in difficoltà. È chiaro che tra qualche mese vedremo una corsa molto diversa da questa. Bravissimo. Sebbene sulle stesse strade. Assolutamente sì, all'Olimpiade sarà una corsa diversa, primo perché ogni nazione può presentare solo 3 atleti come numero massimo, secondo perché non ci saranno le lepri, terzo perché ci sarà in palio la medaglia olimpica e quindi in termini anche psicologici e di pressione sarà sicuramente un'altra cosa. Sarà un'altra roba. Alberto, ti ringrazio. Grazie. Un abbraccio. Grazie a te. Grazie buona giornata, Alberto Cova. A tutti. Dunque, il Milan è andato vicino al gol del clamoroso 2-1 in un paio di occasioni, la prima con Ibrahimovic in 1-1 con un avversario che non è riuscito ad andargli via, poi con Robinho di testa, palla fuori di pochissimo, siamo in pieno recupero. La partita finisce in questo momento ed è 1-1 tra Milan e Bologna, comunque una notiziona per il campionato e soprattutto per la Juventus. È 1-1 tra Milan e Bologna con il risultato raddrizzato in extremis da Zlatan Ibrahimovic che ha giocato forse il suo peggior, anzi certamente il suo peggior primo tempo stagionale, inesistente e irritante come il Milan tutto, un Milan che comunque mi ha fatto una bruttissima impressione, primo tempo orrendo, ma anche nella ripresa sotto di un gol non è mai riuscito ad aumentare il ritmo, quantomeno a mettere alle corde il Bologna, se non negli ultimissimi secondi di gioco. Non so se questione fisica o anche pressione mentale, perché dopo il pareggio di Ibra il Milan ha comunque sentito una scossa, come è certamente migliorato con l'ingresso di Cassano all'11esimo al posto di Seedorf, schierato da Allegri, trequartista oggi. Importante e finale anche il risultato di Roma, dove la Lazio ha pareggiato 1-1 con il Lecce, la rete di Matusalem al 37esimo della ripresa di testa, gol molto bello su un cross dalla destra, ma è arrivato in mischia al pareggio di Božinov al 46esimo e ritengo pareggio assolutamente meritato dagli uomini di Cosmi che sono si avvicinano al Genova. Che sta succedendo a Genova? Non vorrei che continuasse la partita dopo tutta la manfrena che si è verificata. Questo ve lo dirò tra poco, perché non, dalle immagini non sto capendo molto. Comunque, di Genoa a Siena c'è tutto il teatrino che vi ho raccontato e di cui parleremo tra poco. Finisce 2-2 tra Cesena e Palermo, con i gol tutti nel primo tempo di Bertolo, Santana, Rennella e Silvestre. L'Inter all'ora di pranzo ha fatto 0-0 a Firenze. Dunque, torniamo e vi dico subito che la notizia calcistica di giornata è l'1-1 in extremis acciuffato dal Milan in casa con il Bologna, che era passato con Ramirez al 26esimo del primo tempo, Ibrahimovic pareggio al 45esimo della ripresa. Importante anche il risultato di Roma, con la Lazio che non va oltre l'1-1 contro il magnifico Lecce di Cosmi, gol di Matuzanem al 37esimo del secondo tempo, pareggio di Bojinova al primo minuto di recupero. Quindi Cesena e Palermo fanno e disfano tutto nel primo tempo con i gol di Bertolo al 20esimo, pareggio di Santana al 27esimo, Cesena in vantaggio al 28esimo con Rennella, pareggio di Silvestre al 47esimo del primo tempo. Nella ripresa succede poco nulla, l'Inter ha fatto 0-0 un po' per grazia ricevuta a Firenze con Julio Cesar che ha parato un rigore a Ljajic, non una bella Inter, anche se Stramaccioni continua, poi lo sentiamo anche, continua a parlare di obiettivo Champions League. Questi sono i dati calcistici, sono le notizie calcistiche. Poi c'è chi scrive che non è vergogna ma è burlesque, si chiama Angelo. Secondo me è vergogna quello che è successo e sta succedendo a Genova, dove l'improponibile Genoa di Malesani, improponibile davvero, era sotto 4-0 al terzo della ripresa contro il Siena. All'ottavo è iniziata la contestazione degli ultra con fumogeni in campo, partita interrotta da Tagliavento, poi Tagliavento e gli stessi, vi ricordo per la cronaca, giocatori del Siena sono tornati negli spogliatoi e lì c'è stata tutta la trattativa. Fossi un osservatore di un neutrale di un altro paese mi metterei anche a ridere, io invece provo... Ripeto, sincera vergogna per quanto per il nostro calcio, per il nostro sport, è demagogico, me ne rendo conto quanto dico, ma non mi vengono altre parole. Mi fa schifo questo, mi fa schifo che ci siano degli individui che decidono quando si gioca e quando non si gioca, e non sono quelli che comandano della Lega che decidono che dopo la morte di un ragazzo una settimana fa e in onore e in omaggio allo shock di tutti noi non si giochi a pallone. Sono dei personaggi, ripeto, facilissimamente identificabili, vestiti di nero, che interrompono una partita, che pretendono che i giocatori si spoglino delle loro magliette e le consegnino ai tifosi, chiedendolo al capitano scortato dalla polizia. Il capitano ubbidisce a questi, va dai compagni, toglietevi le magliette, diamo loro le magliette che siamo indegni di portare. Scully va lì, dice no, io ho giocato qui 5 anni, la maglietta non me la tolgo, con le lacrime agli occhi come un bambino dell'asilo, insomma. Questi lo abbracciano, in fondo si convincono dopo 45 minuti di gioco. Tagliavento ripò, dice a quelli del Siena: dai ragazzi, andiamo a finire sta buffonata. Tornano in campo i giocatori, stadio vuoto, sono rimasti solo gli ultra che sono lì e danno le spalle alla partita. Insomma, una manfrina di questo tipo, come Andrea Ferro da Genova, che saluto e ringrazio, mi può confermare. Andrea, aiutami ad aggiungere qualche particolare se ce n'è qualcun altro. Ciao. Ma praticamente hai riassunto quello che è accaduto tu. Chiaramente c'è stata un'organizzazione, a mio modo di vedere, in qualche modo premeditata, nel senso che secondo me i tifosi del Genoa, dopo il terzo gol con il quale si era andati a riposo, di fronte a un nuovo episodio, voglio dire, umiliante, anche se chiaramente valgono le considerazioni che facevi te, hanno deciso praticamente di porre in atto quello che presumo avevano pensato durante l'intervallo, cioè hanno sfondato le porte di collegamento tra il settore della gradinata nord, che è il settore della curva, dove si adunano i tifosi, diciamo, più accesi, e i distinti. A quel punto hanno raggiunto la balaustra e quindi la protezione di vetro, si sono arrampicati all'altezza dell'ingresso degli spogliatori, chiaramente un atteggiamento assolutamente intimidatorio, come tutta Italia ha visto e presumo tutto il mondo vedrà nelle prossime ore. E questi signori hanno deciso di intavolare una trattativa addirittura con i funzionari della questura, perché poi praticamente a pilotare questo avvicinamento tra la squadra, in un primo tempo anche col presidente, e i tifosi sono stati i funzionari della questura, i dirigenti del servizio. E la mia sensazione è che questa partita in qualche modo non sia stata sospesa, non è solo la mia sensazione chiaramente, e quindi rinviata con la sconfitta a tavolino del Genoa proprio per questioni di ordine pubblico, quindi fanno giocare ancora questi 37 minuti, nel frattempo sono meno di 26-27, per concludere, diciamo così, la recita, porre fine a questa brutta pagina e poi evitare, almeno questo è l'auspicio dei responsabili del servizio di ordine pubblico, io parlo dall'esterno dello stadio dove sono in corso, certo, a questo punto i piani di organizzazione della gestione dell'ordine pubblico, per, evidentemente per fare in qualche modo un po' evaporare la tensione e quindi consentire poi un deflusso per quello che resta del pubblico allo stadio abbastanza regolare. Oltretutto i tifosi del Siena hanno chiesto di lasciare lo stadio durante diciamo la sospensione, sì, che è durata tre quarti d'ora. Sono state ulteriori trattative dell'ordine pubblico. Come dicevi te, Carlo, praticamente lo stadio di Ferrari si è rimasto in balia di una cinquantina, perché poi se le andiamo a contare non sono di più, di tifosi del Genoa, e la scena ricorda in qualche modo, anche se bisogna fare tutta una serie di differenze, quello che era accaduto nel settembre 2010 con Ivan Bogdanov, certo, che in qualche modo aveva imposto a suo modo l'impossibilità di giocare Italia-Serbia, certo. E praticamente questa, infatti ora rivedendo queste immagini oggi, mettendole soprattutto in collegamento mentale con quello che avevamo visto due anni fa, praticamente il sistema è lo stesso. Sì, praticamente il sistema è lo stesso, caro Andrea. Grazie, buon lavoro. D'accordo, buon lavoro a voi. Grazie ad Andrea Ferro. Il sistema è lo stesso. Ivan Bogdanov lo conosciamo tutti per nome e cognome, non conosciamo ancora il nome e il cognome, ma lo conosceranno certamente tutti i giocatori, i dirigenti del Genoa, Preziosi, tutti quanti conosceranno invece i nomi e i cognomi. La residenza, la data di nascita, la condizione civile e tutto quanto di quelli che erano arrampicati, che erano due o tre insomma, sul tunnel degli spogliatoi, sulla cui spalla Scully è andato a piangere, a supplicare di tenere addosso la maglietta. Una cosa vergognosa. È una parola che non mi piace, piena di demagogia, ma non me ne viene un'altra. Daniele da Genova, chissà se a voi viene qualche altra parola, qualche buonasera, altro aggettivo. Gente. Sabatino da Salerno, poi al prossimo 800 24 00 24. Buonasera a lei, Daniele, dica. Ma no, guardi, la cosa incredibile è questa: io sono in macchina, sono in viaggio, per cui non ho avuto modo di seguire i dettagli a parte il risultato. E sinceramente ho subito telefonato perché mi avevano un po' irritato i suoi aggettivi, perché è ovvio che ti gira le scatole da genuano, vai giù dritto in Serie B. Poi nel frattempo ho ricostruito un po' ascoltando voi il TGR, quindi francamente sono rimasto senza parole. Nel senso che da genuano, da genovese, dico: ma com'è possibile mai che sia accaduto questo? Questa è la prima considerazione, quindi sì, in verità ho dovuto subito modificare il mio... Io le dico, non ho ovviamente niente contro Genoa, che è anche una squadra che mi è simpatica, però la trovo, da sportivo, da osservatore del calcio... Mi sembra, ci vergogniamo di nuovo davanti a tutti, davanti al mondo. Niente da dire, quindi chiuderò il capitolo e ce la teniamo, sta figura di M. Detto questo, sportivamente, perché io non abito a Genova, anche appunto sempre seguo la squadra per quanto mi è possibile, non frequento lo stadio, perché c'è a questo punto un valido motivo antropologico: non è possibile andare in uno stadio dove può accadere una cosa del genere. Purtroppo io direi che non accade soltanto a Marassi, lo stadio di Genova. La verità è che questi signori vestiti di nero sono parte del gioco del nostro calcio, ma solo da noi, sono parte del nostro sport, ma solo da noi. Daniele, la ringrazio, buon viaggio, Allegri con Sky, poi ci fermiamo. Ci è creduto fino alla fine, purtroppo non siamo riusciti a vincere, quindi momentaneamente abbiamo raggiunto con un punticino la Juventus. Però mi sembra di cogliere tanta delusione, perché forse questa, che poteva essere una partita spartiacque, mi sembra che non volga a vostro favore, ecco. C'è questa sensazione? Ma in questo momento c'è delusione perché non abbiamo vinto, però è anche vero che manca ancora 5 partite. È normale, se la Juventus stasera vincerà hanno grandi possibilità di vincere lo scudetto. Se la Juventus non vince, rimarrà tutto come prima, con una partita in meno. Che cosa non ha funzionato? Primo tempo ho visto tanti errori da parte del, nell'ultimo passaggio, tanti errori da parte anche dall'uomo che doveva fare gol, il capocannoniere Ibrahimovic. C'è qualche singolo che ha toppato, a parte poi nell'occasione del gol? Ma il primo tempo sicuramente, dopo il vantaggio del Bologna, non abbiamo giocato bene, abbiamo sbagliato molto anche vicino all'area. Il secondo tempo invece la squadra ha fatto decisamente meglio, però non siamo riusciti a vincere, anche perché siamo rimasti in 10, abbiamo fatto uno sforzo importante, abbiamo creato anche diverse situazioni, anche l'ultimo colpo testa di Robinho che è uscito di poco, e ragazzi nel secondo tempo non ho assolutamente a rimproverare niente. È normale che c'è un po' di delusione, perché pensavamo, credevamo di poter vincere oggi e di balzare in testa momentaneamente al campionato. Magra consolazione il fatto che quando questo Allegri, questo Allegri che prova a difendere il suo Milan, sinceramente oggi indifendibile, soprattutto nel primo tempo. Torniamo, vediamo anche ai vari messaggi, 349-238-6666, la colpa non è dei tifosi, sì dei tifosi Danilo, perché adesso, ma di Lega e Federcalcio che non hanno bloccato la partita con la vittoria a tavolino, spero si decida che il Genoa non giochi più in casa sino a fine del campionato. Sì, io darei 10 giornate di squalifica dopo questa esibizione. Sono contrario alla responsabilità oggettiva come strumento giuridico, ma in questo caso per responsabilità oggettiva chiara della società, che conosce, ripeto, nome, cognome, tutti i dati anagrafici del caso di quelli che hanno provocato la sospensione e che hanno impedito alla partita, ad una partita del campionato di calcio, di proseguire. Evento pubblico in cui sono in ballo molti interessi, molti soldi, molte cose di questo tipo. Ebbene, insomma, sono curioso di vedere quali provvedimenti verranno presi nei confronti del Genoa per responsabilità oggettiva e nei confronti degli Ivan Bogdanov di oggi, ripeto, facce che a Genova tutti conosceranno benissimo. Beh, basta chiedere a Scully, che è andato lì a piangere sulla spalla di questo tizio e a farsi abbracciare, lo conoscerà bene, no? Chi è quel tizio vestito di nero arrampicato sul tetto del sottopasso. Sabatino da Salerno, buonasera. Buonasera a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ai vostri spettatori. Grazie. Ascoltatori. Sì, dica. E volevo dire che mi associo alla vostra vergogna, perché anche io, come sportivo di calcio, che amo il calcio, mi associo alla sua vergogna. Io non voglio dare, diciamo, colpi alla società, perché in questo momento di crisi... Io sì. La crisi toccherebbe molto la società, però darei le partite chiuse al pubblico e il seguito degli ultras finché non usciranno fuori tutti i responsabili. Invece di fargli fare 3 anni di galera a nostre spese, gli darei 3 anni di carcere, di servizi socialmente utili non retribuiti. Sì, questo è quello che guardi, possiamo eliminare questo problema di violenza negli stadi. Guardi, quei signori sono facilmente identificabili e non ci vorrà molto per saperne nome e cognome. Io non penalizzerei la società, perché è la società che è responsabile della gestione dell'evento, no? Quindi la responsabilità mi sembra palese, e poi discutiamo sulle porte chiuse, mica le porte chiuse, questo non lo so, ma sinceramente mi interessa poco, così come mi interessa poco il tipo di sanzione che dovrebbe essere adottato nei confronti di costoro. Luca Calamai, inviato da Gazzetta dello Sport, ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Allora, prima di dirmi di Inter, di un commento su questo campionato che sembra avere un padrone dopo questo 1-1 di Milano, in attesa di ciò che succederà stasera. Aspettiamo stasera, perché sì. Guarda, la sensazione è che questo campionato, tutto ciò che sembra scontato poi diventa clamorosamente diverso, no? Sì, è vero. Se pensi, il Milan ha fatto un punto in 2 partite casalinghe, dove alzi la mano chi non avrebbe garantito 2 vittorie, quindi questo è un campionato che ora arriva in una fase in cui mi sembra che molte squadre sono stanche, non conta i nomi dei giocatori, conta quello che ancora uno può mettere nella mischia. Però mi fai fare un passo indietro su Genoa, sentivo che ma parlavi. Naturalmente io volevo proprio partire da lì con te. No, perché allora qui ora il rischio, te lo confesso, il rischio che corriamo è quello di sfociare nell'ipocrisia o nella demagogia più bassa, demagogia, però non mi viene siamo, altra sensazione, non mi vengono altre parole, io ti dico la verità. Noi siamo nei nostri uffici, non viviamo quel tipo di realtà e quindi è molto facile dire quello che io sto per dire, però io lo penso e quindi lo devo dire. Allora, io trovo mortificante, è una sconfitta clamorosa per il calcio che a fronte di 100, 200, ma fossero anche 20.000, sarebbe assolutamente irrilevante, il calcio si tolga le maglie sì. di fronte alla violenza, sì. di fronte a un certo tipo di aggressività. Lì abbiamo perso tutti, cioè non c'è partita in quel momento, no? Perché togliersi le maglie vuol dire che voi, cioè gli altri, quelli che erano dall'altra parte, che hanno il diritto di non essere contenti, il diritto di fischiare, ma non il diritto di fare un atto di violenza come quello, hanno vinto. Sì, sì, ma hanno stravinto. Quindi, ma te lo premetto, è molto facile perché io poi stasera vado a casa mia e quei giocatori invece stasera vanno a casa Genova. Sì. Ma se questo che ti aggiungo vuol dire che il calcio non è più padrone della propria, del proprio essere, è una realtà, quella che ho visto oggi, molto sudamericana. Cioè noi pensavamo che fossero realtà d'altro mondo, no? Dove ti arriva e ti dicono via la maglia, perché il passaggio successivo quale può essere? Dovete fare autorete perché non vi vogliamo più vedere. Qual è il passaggio più successivo a togliersi la maglia, che è il simbolo sì. di un mondo, di uno sport, di un campionato, cioè, i giocatori che ubbidiscono a questo diktat di, ripeto, di questi personaggi che conoscono molto bene, perché sarà gente che bazzica intorno al campo di allenamento tutti i giorni, che magari fa dei favori ai giocatori o alla stessa società. La società conosce perfettamente questa gente che era lì a viso scoperto e li abbiamo visti tutti. Non è la prima volta, ma l'ennesima che vediamo. Comunque i giocatori come cagnolini con le orecchie basse andare a trattare quasi, con queste persone. E quel mesto che si rifiutava di farlo sembrava quasi un extraterrestre, cioè, ma è Preziosi che era lì e che permetteva che 100 persone decidessero che i giocatori della sua squadra dovessero levarsi le maglie. Guarda, per me, io ripeto, io lo trovo una sconfitta clamorosa, una cosa che rischia di diventare un punto di non ritorno, perché poi ricordati, per un mondo deviato, sbagliato, folle, violento, quei tifosi diventano degli eroi e quell'atteggiamento fatto diventa un modello di riferimento per quell'anima violenta che c'è purtroppo dentro la società e quindi di conseguenza anche dentro il calcio. Ti dico, oggi io mi sento sconfitto, mi auguro che tutto il calcio prenda atto che in quel gesto abbiamo perso tutti sì, e non è facile dubbio. Poi riconquistare la nostra maglia, perché quella maglia del Genoa è la maglia di chiunque gioca a pallone, di chiunque ha giocato ieri a pallone, oggi a pallone. Sì, e una settimana fa non si giocava a pallone per onorare lo shock di tutti noi e poi tre giorni dopo si litigava in Lega Calcio per capire quale giornata si doveva giocare. E oggi i giocatori vengono costretti a levarsi la maglia. Io come te mi vergogno, pur quindi, non c'entra ecco nulla. Oggi faccio fatica a parlare del Milan, dell'Inter, della Fiorentina e della Juventus perché ci partecipo, perché mi sembra che oggi mi hanno tolto qualcosa e che quei gente hanno permesso questo. E poi si rigioca per quale motivo? Perché uno è andato a trattare. Cioè dobbiamo trattare il permesso esatto, di giocare? Esatto. Dobbiamo. Io ho sempre trovato intollerabile ogni tipo di trattativa di giocatori o società con i tifosi. In ogni caso, al di là di questo specifico, a me è sembrato una sconfitta, qualcosa comunque di innaturale, perché in nessun paese del mondo c'è una trattativa tra chi tra l'attore, tra chi lavora, tra chi svolge una professione e il cliente di questo spettacolo. Appunto, in nessun paese al mondo. A meno che questi signori abbiano possano dimostrarci che i giocatori del Genova si sono venduti la partita, portino le prove, e allora, portando le prove, questo è un altro discorso, certo. Il presidente Prezioso avrebbe il diritto di cacciarli via tutti, il calcio di radiarli e di compagnia. Ma i giocatori del Genova hanno giocato cercando di vincere come tutti quelli che vanno in campo la domenica, comunque cercando di fare il meglio, non sono in grado di fare un risultato, cioè non è che lo stanno, cioè che il Genova in questo momento è la squadra peggiore del campionato, sicuro, credo sia da settimane, cioè non da oggi, da settimane, quindi qual è, allora ti dico, oggi è un altro giorno un po' così per il calcio. E poi niente, ci sforziamo, magari stasera poi ci divertiremo moltissimo a vedere Juventus-Roma e riprenderemo la voglia di cosa. Però in questo momento io abbiamo tolto la maglietta a tutti di fronte a questo. Ecco, l'ho vissuto come un atto un po' di violenza. Un po' tanto di violenza, caro Luca. Ti ringrazio. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao Luca Calamai. Bravissimo come sempre, secondo me. Nel centrare il punto, hanno costretto tutti noi a levarci la maglietta in 50, mica in 100.000. Reia con Sky. Sono capitato all'arco del campionato, però quest'anno ci sono successi di tutti i colori, cioè è successo di tutto, tra infortuni, ma non solo muscolari, ma anche infortuni di ginocchia, infortuni da trauma. È stata un'annata particolare, non mi è mai successa una cosa di questo genere. Ilaria. E ci metterei anche altri incidenti di percorso vari. Vabbè, comunque la Lazio rimane lì terza in classifica a 55 punti, alle spalle di Juventus e Milan che ne hanno 68, l'Udinese ne ha 52, ha giocato ieri, il Napoli è risalito a 51 dopo la vittoria sul Novara, la Roma che gioca stasera ne ha 50, l'Inter sale a 49 dopo il pareggio di oggi di Firenze. Ed è secondo me impossibile che possa agguantare la Champions League, e per quanto visto oggi e per il numero delle squadre, al di là dei punti, per il numero delle squadre che le stanno davanti. Catania 46, Chievo 43, Siena 42, perché ha segnato, a proposito, il Genoa autorete di Del Grosso, se volete, per la cronaca, perché Amarassi appunto si sta chiudendo questa farsa, questa pagliacciata. Siena 42, Parma e Palermo e Bologna 41, Atalanta 40, Fiorentina Cagliari 38, Genoa 36, il Lecce ad un solo punto a 35, Novara 25, Cesena 22. Mario Davari, buonasera. Buonasera, senta, io chiamo per quanto riguarda, anche per me è vergognoso quello che è successo a Genova, perché qui dobbiamo iniziare a prendere delle decisioni forti, dure. Ma quante volte l'abbiamo detto? Sì, ma adesso bisogna attuarle. Adesso. Se un giocatore del Genova non può tenere la maglia addosso, il tifoso del Genova non dovrebbe tenere quella sciarpa al collo. Sarà responsabile della retrocessione della squadra del Genova. Ma non è questione di tifosi, qui sono rapporti diversi, non è questione di sciarpa al collo. Sono d'accordo sul fatto, quante volte abbiamo detto qui è ora di prendere provvedimenti duri? Quante volte, sono 10 anni che faccio questo programma, non so quante volte l'abbiamo detto, ma probabilmente troppe. Non verranno presi provvedimenti alla fine politici, e poi alla prossima trattativa tra i signori vestiti di nero e i capitani di una squadra di Serie A, perché tutti i capitani di tutte le squadre di Serie A sono passati attraverso questa roba, alla prossima trattativa ci troveremo a dire le stesse cose. Bravo Stefano da Torino, ha ragione quando scrive: Maldini non ci è passato da queste trattative con i signori del tifo vestiti di nero. E infatti ci ricordiamo tutti il tristissimo saluto, tristissimo per la cornice, per il contesto, per il contorno, l'avvilente saluto di Maldini, di Paolo Maldini al Milan e al calcio a San Siro. Gianluca da Genova. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono qua allo stadio. Lei a vedere stadio. Sì. Anzi, ormai è finita, quindi c'è poco da vedere. Sì. La cosa veramente che meraviglia, a parte la squadra Genoa in sé, che sulla carta vederla così veramente è triste. Perché sicuramente con i giocatori che abbiamo, farla fine come hanno fatto la Sampdoria l'anno scorso veramente è triste. Però vabbè, nel senso. La cosa forse un po' che fa pensare è quelle persone che sono ancora adesso lì sulle griglie, sì, con i problemi che abbiamo in giro, noi pensiamo a stare sulle griglie, a serragliare i giocatori invece di serragliare altra gente, ecco. questo il discorso. È questo il discorso, naturalmente. È questo il discorso, però sarà anche ora che le società paghino in maniera vera, no? Il fatto di consegnarsi a queste persone, no? Sarà ora. Una società come Genoa non vedo come possa fare, cioè o queste persone li prendi, li tiri giù, o cosa ci può fare una società Genoa in sé, o non fai venire più nessuno allo stadio, o non credo che ci sia soluzione. Purtroppo la tessera del tifoso non serve a niente, perché comunque qua in la tessera del tifoso è la solita pagliacciata italiana, che serve a schedare bambini, che serve a schedare persone che vanno allo stadio come lei per vedere la partita, eventualmente per fischiare o per andarsene a casa se non gradiscono lo spettacolo. La tessera del tifoso è una pagliacciata, a mio parere. Inutile e lesiva anche di certi importanti diritti. È inutile semplicemente perché quei 50 lì la società li conosce benissimo, uno per uno ne conosce il nome, il cognome, la provenienza, così come questi nomi sono noti alle autorità. Semplicemente si permette in Italia, soltanto qui, di interferire, quindi di interagire con la squadra, si concede loro udienza. Si concede loro di essere parte del gioco, e vi ripeto, io ho visto, tranne Maldini probabilmente, tutti i capitani di Serie A si sono abbassati a questo tipo di umiliazione. Diceva benissimo prima Luca Calamai, oggi è stato un gesto di violenza inaudita questa imposizione da parte di costoro ai giocatori del Genoa di togliersi le magliette e consegnarle nelle loro mani. È stata una cosa, un gesto di violenza vera, questo è stato un gesto di violenza vera. Giacomo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Mi scusi, sempre in merito alla partita di Genoa, volevo fare una considerazione più generale. Secondo me in Italia manca completamente la cultura della sconfitta. Sì. Non per fare l'esterofilo, ma io ricordo qualche anno fa una partita Leeds-Arsenal. Sul 5-0 per l'Arsenal, i tifosi del Leeds, vedendo i propri giocatori ancora impegnarsi, cantavano Glory Glory Leeds United. Sì, è una cosa che in Italia è completamente bastava guardare il clima del Camp Nou sconfitto ieri sera. Ma sì, ma sono troppi gli esempi ed è anche troppa la facile demagogia fondata che si può fare su questo argomento. Non è nemmeno questione di cultura della sconfitta, è questione di consentire dalle nostre parti delle cose che non hanno minimamente ragione di essere, di esistere. Cioè non, con questi signori non si deve parlare, punto. Cioè non esiste che Del Piero vada a colloquio con le orecchie basse a colloquio con i tifosi. Me lo ricordo benissimo Del Piero a colloquio con questi, così come mi ricordo tutti i capitani di Serie A che in certi momenti di tutte le squadre, anche le grandi squadre, da Totti a Zanetti eccetera eccetera, che sono andati lì come bambini dell'asilo con le orecchie basse a parlare con questi. Ma perché? Ma se io o lei o Valeria che è in regia o Giorgio De Luca che è in redazione chiedono un colloquio con Totti, ma secondo voi riescono ad andare lì? Devo parlare col capitano, lo portano via le camionette. Pierluigi Pardo, buonasera, grazie. Buonasera. Abbiamo tolto tutti le magliette insieme ai giocatori del Genoa, si diceva oggi, caro Pierluigi. Sì, beh, insomma, dal punto di vista, diciamo, della gestione dell'ordine pubblico mi è sembrata una strategia tesa a evitare grossi guai dal punto di vista proprio di quello che poteva succedere se ci fosse stato il corpo a corpo con le forze dell'ordine, oltretutto in un settore, quello degli istinti, che è un settore, insomma, popolato da famiglie, da un settore assolutamente normale, quindi anche, diciamo, con poca abitudine fortunatamente a trovarsi in situazioni molto complicate. Guarda, io mi ricordo i tifosi del Genoa, una parte dei tifosi del Genoa, anche degli ultra del Genoa, a dare una mano dopo l'alluvione agli angeli del fango. Vederli oggi bloccare la partita mi fa male perché comunque perché comunque è ovvio che Genoa stia facendo male, è ovvio che chiaramente le cose non stanno andando come i tifosi di Genoa possono in qualche modo sperare, ma dovrebbe esistere anche una cultura della sconfitta. Sì, c'è un avversario, l'avversario sta dominando, tu puoi fischiare, puoi contestare, puoi andartene, puoi incitare, puoi andartene, soprattutto non puoi impedire il diritto degli altri. Quanti diritti sono stati violati, lesi con questo, no? Il diritto dello spettatore normale, magari di quello che andava a vedere la partita normalmente, del tifoso ospite che comunque stava vedendo la sua squadra giocare, dei telespettatori, degli scommettitori, che sappiamo oggi, visto che le scommesse sono legali, insomma, adesso io non so se verrà in qualche modo omologato questo risultato oppure no, ma insomma, se ci sarà lo 0-3 a tavolino, ma è comunque una turbativa. E poi, ecco, quello che mi ha colpito è stato l'atteggiamento veramente a testa bassa dei giocatori. Sì, cioè, io credo che un'umiliazione del genere sia stata veramente quasi teatrale. Sì, sì, no. Ma questo gesto di Rossi, capitano del Genoa, bandiera peraltro del Genoa, il giocatore più amato della tifoseria, che va, dopo aver parlato con questi, va dai compagni a dire: ragazzi, via le magliette, perché questi le vogliono le nostre maglie, vogliono che usciamo nudi dal campo. Ma ti rendi conto? È assolutamente qualcosa di incredibile. Devo dire che dal punto di vista degli ultra, insomma, lo spettacolo è perfettamente riuscito. Sì. Di chi ha deciso questo, nel senso che sicuramente sono stati padroni della situazione, hanno deciso tempi e modi, hanno deciso che a un certo punto la partita andava sospesa, che le maglie andavano tolte, che poi si potevano rimettere dopo che c'era stata la mediazione. Insomma, a me dispiace molto, sì. Anche perché poi tutto questo arriva dopo una settimana nella quale io mi ero trovato anche un paio di dibattiti a sottolineare che forse il dramma, la tragedia di Morosini, però delle dinamiche positive fra tifosi, anche fra ultra, in qualche modo l'aveva tirate fuori, perché certo, comunque ci sono ultra che sono partiti di notte, hanno portato la sciarpa semplicemente per il gusto, quindi io non voglio colpevolizzare tutto, ma è chiaro. Che qui quello che abbiamo visto oggi non è accettabile, e onestamente non è neanche accettabile come sistema Italia. Cioè, qui il problema, al di là di quello che hanno fatto gli ultra, che sono riusciti perfettamente a fare quello che volevano fare in quel momento, certo, è che siamo tutti, come Italia, come istituzioni, come paese, come forze dell'ordine, passivi. E il massimo risultato di un pomeriggio del genere è evitare i tafferugli, che per carità è importantissimo, sicuro, ci mancherebbe altro, eccetera, però è il massimo risultato, e per evitare i tafferugli si arriva a un'umiliazione, a una sconfitta così clamorosa, così teatrale. Certo. Pierluigi, per provare a parlare d'altro prima di salutarti, la Juventus può allungare le mani sullo scudetto stasera? Sì, credo che oggi la Juve non cambi la situazione della Juve dal punto di vista della partita che deve fare, nel senso che deve vincere. Il pareggio e la sconfitta sono praticamente identici, visto che la Juve comunque ha lo scontro diretto a favore, quindi è già davanti. È chiaro che se dovesse vincere la partita, a quel punto avrebbe una partita intera di vantaggio, potrebbe, se non ci saranno altri scossoni, addirittura festeggiare come una giornata d'anticipo. Il Milan di oggi mi sembra che confermi le sensazioni molto negative, quindi l'idea è che possa anche perdere qualche altro punto. Stasera io credo che, insomma, sì, la Juve ha chiaramente una grandissima opportunità, arriva con una condizione fisica completamente superiore rispetto al Milan. Credo che sicuramente le polemiche anche oggi ci saranno, perché anche oggi comunque c'è stato un episodio che poteva condizionare la partita, però la brillantezza in questo momento del Milan, si fa per dire, è veramente poca cosa. Certo, è un Milan momento, sciolto, quello di oggi è un Milan sciolto. È un Milan in grandissima difficoltà, dove evidentemente si sono consumate troppe energie, e credo che poi alla fine il Milan, secondo me, rimane più forte come somma di talento rispetto alla Juve. La chiave sia stata il grandissimo lavoro di Conte e la condizione fisica. Sicuro. Milan ha avuto una quantità industriale di infortuni che l'ha condizionata per tutta la stagione, la Juve praticamente non ne ha avuti, ha avuto certamente il vantaggio di fare anche questo, ma insomma forse anche questo è un segno della difficoltà del calcio italiano, cioè che alla fine chi si avvantaggia è chi fa soltanto due competizioni. Sì, che riesce a gestire. No, ma non c'è dubbio che questo abbia avvantaggiato la Juventus, e che la Juventus comunque sia stata bravissima a trarre vantaggio da questa situazione. Grazie. Io credo però che questo potrebbe anche cambiare un po' la partita di stasera. La Juve giocherà con meno pressione, forse con meno spinta, e in qualche modo potrebbe condizionare la partita di stasera. Grazie per Luigi, bocca al lupo, grazie, buon lavoro. Tra i tantissimi avvenimenti sportivi di oggi c'era anche la Liegi-Bastogne-Liegi, ultima delle grandi classiche del nord per il ciclismo, che è stata vinta dal kazako Iglinski per distacco, secondo l'italiano Vincenzo Nibali, quindi Ottima prova per Nibali che stavamo aspettando anche per verificare le condizioni in prospettiva Giro d'Italia, un Giro d'Italia molto vicino ormai. C'è stata la finale del torneo di Monte Carlo con Nadal che ha vinto per l'ottava volta consecutiva questo torneo, ma che soprattutto ha interrotto a 7 la catena di sconfitte consecutive con il rivale acerrimo di questo periodo, cioè Djokovic. Riprendo a parlare con gli ascoltatori, con Antonio da Catania e Antonio da Genova. Partiamo da Catania, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera dottore, lei e tutti gli ascoltatori. Senta, io sono integralmente d'accordo con il discorso che fa lei, anche perché faccio parte di quelle persone che pensano che un esempio vale più di 1000 prediche. Non fosse altro perché a Catania noi l'esempio 5 anni fa l'abbiamo avuto a seguito degli avvenimenti drammatici che hanno visto la morte di un servitore dello Stato. Noi abbiamo giocato 11 partite fuori casa, da allora in poi la tifoseria del Catania è il paradigma della correttezza. Come mai? Non fosse altro, ritengo che un esempio vale più di 1000 prediche. Allora, anziché parlare con certi cialtroni, lo Stato è Stato e non può abbassarsi a questo. Le società di calcio devono cominciare a prendere provvedimenti e smetterla di interloquire sullo stesso livello con gente che vuole solamente creare danno all'immagine dello sport, a tutto un movimento sportivo e compagnia bella. Sì. Se poi si devono creare delle sperequazioni, che quando succede qualcosa da noi ci sono sempre delle ingerenze di strana natura, perché allora quando fu del povero ispettore della CD si parlò di tutto, di strano. No, ma si parla, legati, guardi, eccetera. Si parla di si straparla in situazioni come queste, però sono d'accordo sul fatto, poi discutiamo sullo Stato che deve abbassarsi oppure no a queste cose, perché di ordine pubblico comunque che si tratta, perché ci sono delle leggi che grosso modo dovrebbero essere delle leggi dello Stato che grosso modo dovrebbero essere fatte valere e non mi risulta che lo stadio sia terra franca, che non sia un territorio dello Stato. Al di là di questo, sono d'accordo sul fatto che le società sono pienamente responsabili della gestione di questi eventi, della gestione di queste tifoserie, di questi individui che conoscono perfettamente, e quindi la responsabilità in casi come questo di lesione di molti diritti, come si diceva anche con Pierluigi Pardo, di vergogna assoluta, di umiliazione teatrale, come pure si diceva, ebbene questa responsabilità vada fatta valere in maniera più dura e decisa. Antonio Genova, buonasera. Sì, buonasera Carlo, buonasera. Sì, sono di origine peruviano, no? Sì. Resido qui a Genova. Sì. Lo che è successo oggi a Genova è vergognoso. È vergognoso perché alla fine il calcio ha perso. Te lo dico come appassionato del calcio. Tu lo sai che a Sud America, Perù, Colombia, Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, lì si gioca il calcio. Si gioca il calcio non pensando sicuramente nel soldi, ma si gioca per il calcio. Concordo con tutti i commenti che ho sentito, tranne quello che non mi è piaciuto, di comparare lo che è successo oggi nel calcio sudamericano. Io ho quasi 55 anni e mai visto questo. No, vado però, da 6 anni, Antonio, certo, ci sono anche nel calcio sudamericano, soprattutto in Argentina, insomma, i problemi sono stati enormi e questo lo saprai, te lo ricorderai anche tu, l'incidenza delle tifoserie violente, ma violente sul serio, delle tifoserie criminali in Argentina è stato un problema nazionale, è stato un problema enorme, serissimo, che esiste ancora. È chiaro che questo non accade ovunque, è chiaro che lo spirito può essere differente. Il calcio sudamericano però i suoi problemi li ha avuti. Io ciò che non, insomma, che a livello internazionale non ha riscontro è questa. Io adesso sto guardando Fre, che sta andando anche lui con le orecchie basse a parlare con i tifosi, cioè non esiste al mondo questo rapporto perverso tra i giocatori e gli ultra, che sono fino a prova contraria dei normali spettatori. Questo atteggiamento, questa perversione, ecco, è tipicamente italiana. Sai cosa sta dicendo Lotito, presidente della Lazio? Poi sentiremo anche Angelo da Bari. È stato veramente chiaro Mario Illuminante è un tema che conosce bene, lo ha vissuto e lo ha vissuto scegliendo una posizione intransigente, ce l'ha spiegata chiaramente. Alessandro Alciato, una tua domanda per quanto riguarda l'altro versante, insomma, presidente della Lazio in un momento cruciale della stagione per la squadra, al di là degli ultra. Grazie per l'altra risposta, presidente. Alessandro. Bene, grazie a lei. No, volevo semplicemente sapere se anche lei, dal punto di vista della partita, è dimesso, è piuttosto triste, come abbiamo visto, dimesso è piuttosto triste, direi, e anche parecchio arrabbiato. Ma qui non si tratta di essere dimessi o dimessi, si tratta che sicuramente ci rimproveriamo il fatto che a tre minuti dalla fine, cioè tre minuti del periodo supplementare, diciamo, del recupero, non abbiamo gestito la partita con un po' di astuzia, con un po' di esperienza, con un po' di cinismo, e quindi poi è capitato quello, ecco, l'imponderabile, e abbiamo pareggiato una partita che onestamente abbiamo avuto sempre in pugno, nonostante una buona prestazione da parte del Lecce. Ma io non posso ricriminare nulla alla squadra, perché ha fatto una grande prestazione, abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo concretizzato, e poi abbiamo peccato di ingenuità a tre minuti dalla fine del tempo, non solo regolamentare ma proprio della partita, perché gestendo la palla non avremmo sicuramente avuto la possibilità, caro presidente, così è andata. Però Lecce ha giocato una grande partita anche oggi all'Olimpico, quindi nulla rubato, anche se il gol è arrivato nel finale. Angelo da Bari, buonasera. Buonasera a lei e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Sempre molto obiettiva. Ho due considerazioni e un esempio. La prima considerazione è che, come ha detto qualcuno prima di me, spero che diano non 10 ma anche 15 giornate di qualifica allo stadio, e che vadano a giocare in un posto dove magari la Serie A viene più apprezzata, tipo Perugia, tipo, non so, l'Aquila. No, tipo poi lo decidiamo. Poi lo decidiamo, però insomma, l'unico tipo di soluzione non può che essere quello di far valere le responsabilità della società, che non è in grado di gestire queste frange di ultra. E non vale solo per il Genoa, vale anche per tutte le altre, perché non è solo il Genoa ad essere in mano a costoro, vale anche per tutti gli altri. C'è Sannino, che oggi era in panchina con il Siena a Genova, ai microfoni di Sky. Intanto uno spettacolo che forse nessuno immaginava di poter vedere ancora dopo la tragedia di Morosini, no? Dove tutti noi eravamo così tristi per quello che era capitato a un ragazzo durante una partita di calcio. Oggi è capitato un qualcosa che era inimmaginabile. Il Siena ha fatto la sua partita pensando a una salvezza anticipata, e oltretutto anche per tutto quello che è intorno a noi in questo momento si vive. Però mi sono messo anche nei panni dei ragazzi del Genoa, devo dire la verità. Mi dispiace vedere questi ragazzi che devono stare in campo e non possono anche entrare nello spogliatoio, perché la tifoseria non è contenta, non è felice. Però io parto sempre dal supposto. Questo è Sannino, ma naturalmente su questi argomenti torneremo dopo il giornale radio 800 24 00 24 per intervenire. Invito a delle persone di interrompere una manifestazione sportiva, e soprattutto in presenza delle forze dell'ordine. Cioè, le forze dell'ordine hanno cercato di mediare questa situazione. Io credo che a un certo punto non c'è mediazione che tenga. Lo Stato, per così dire, deve fare lo Stato. La partita si doveva continuare senza nessun problema. Ecco, ma è quello che poi, se dico qualcosa, poi forse urto suscettibilità locali e di organizzazione, ma una partita così difficile e comunque poteva anche prevedere un certo tipo di contestazione, perché era nell'aria. Però non lo so, io non so, non mi piace il baratto e il compromesso, quello di umiliare i propri giocatori per poi far star tranquilli, per far vincere alcuni tifosi faziosi, che al di là delle offese mie personali, che comunque ci stanno, perché poi se uno mi manda a quel paese non me la prendo certamente, no? Però il problema è che io chiederei allo Stato, perché come mai eravamo solamente 10 poliziotti di fronte a questa massa di 160, 80 persone che hanno avuto il sopravvento e hanno in qualche maniera imposto a noi dei comportamenti poco sportivi. Questo è quello che io mi chiederei. Questo era Preziosi con Sky, ve l'ho fatto sentire in diretta. Io mi chiederei anche quali sono, e chiederei a Preziosi anche quali sono i contatti tra il Genoa e questi 60, 80, eccetera. Quali sono i rapporti tra lui personalmente e la società Genoa e questi 50, 60, 80, 100. Intanto c'è la grandinata del già sentito, a cominciare da Abete, presidente federale, violenza inaccettabile, questi non sono tifosi, le norme, le immagini ci sono, ora mi auguro che non entrino mai più in uno stadio, ben ha fatto Scullia a non togliersi la maglia, questo Abete. Poi Lotito, che prima abbiamo sentito, ma su altri argomenti, questi comportamenti non rappresentano i valori dello sport, bisognerebbe riportare il comportamento dei tifosi nell'area delle regole. Purtroppo le società non hanno grandi strumenti, io ne ho fatto una battaglia, ma siamo ostaggio di questa gente che può creare dei problemi alle società, lo può fare. Allora rimaniamo ostaggio? Facciamo così? Cioè ci consegniamo, continuiamo a consegnarci a costoro? Non lo so, mi è capitato sotto il naso, ma per caso, mentre ero di là nella pausa, il Corriere dello Sport di mercoledì, in cui c'era questa inchiesta, il solito titolo pallone sgonfiato, già letto e straletto, venivano segnalati i sei punti della crisi del nostro calcio, a partire dal format, con la Lega che continua a difendere il campionato a 20 squadre e si allunga a dismisura la stagione, il fronte delle scommesse che è tuttora attivo e non si sa in questa lunga discesa verso gli inferi dove si andrà a finire, le regole violate. L'ultima richiesta delle società è stata quella di modificare la responsabilità oggettiva. Durissimo l'intervento preventivo di Petrucci, non se ne parla nemmeno e non vedo perché se ne dovrebbe parlare. Io che da un punto di vista così filosofico, giuridico, sono contrario alla responsabilità oggettiva tout court, però non vedo come sia possibile in questo mondo strano e un po' perverso come il calcio rinunciare alla responsabilità oggettiva, perché la domanda di Preziosi può essere legittima. Preziosi che ha anche detto spero nella squalifica di Marassi, ma stia tranquillo Presidente, perché quella arriverà e credo e spero sia anche molto lunga. Proprio per questo discorso della responsabilità oggettiva è legittimo domandarsi insieme a Preziosi e insieme a Mauro, lo Stato faccia lo Stato, quindi impedisca queste situazioni, non si limiti a controllare, a vigilare, a scortare il capitano mentre va a parlare con costoro, ma intervenga in maniera un po' molto differente. Insisto su quelle che sono a mio parere responsabilità precise delle società. Antonio da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo un po' schierarmi controcorrente su questa cosa che appunto di cui state parlando. Perché io da tifoso posso anche capire comunque sia il malumore della tifoseria, che poi è sfociata diciamo in questa contestazione un po' esagerata. Però bisogna anche mettersi nell'ottica dei tifosi che comunque vedono i giocatori che guadagnano strapagati e perdono in casa 4-0 col Siena. Mi perdoni, ci sono tifosi di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D? Cioè chi entra in uno stadio ha uno status diverso l'uno dall'altro? Cioè tutte le persone che ci sono in uno stadio hanno uno status diverso, cioè se uno va a sedersi in tribuna, vede la sua squadra che perde 4-0, piglia e se ne va a casa, ha uno status diverso rispetto a chi va in curva, secondo lei? Ma secondo me semplicemente hanno fatto bene i tifosi a fare quello che hanno fatto, dovevano fare di più, perché poi per dire anche Conte che guadagna 8.000 euro solamente per cambiare i capelli, queste non sono cose normali. E su questo io vi saluto, non so neanche più cosa dirvi. No, ma meno male che ci saluta, perché non so nemmeno cosa dire anch'io, nemmeno io di fronte a questo intervento, sinceramente. Meno male che ci saluta. Traffico, che è meglio. Sentiamo Serse Cosmico Sky, che è meglio. Che vedi, non quello che ti raccontano, perché nel calcio a molti fa piacere raccontare cose diverse. Va bene, grazie Cosmi. Peccato, non abbiamo sentito il suo intervento se non finale, di nessun senso in realtà. Salvatore da Salerno. Buonasera. Buonasera. Voglio intervenire sul fatto di Genova. Allora, questi giocatori hanno subito una violenza psicologica, tipo camorristica, e quindi è una cosa inaccettabile. E questo rispecchia un po' la società dell'Italia su tutti i settori. Questo volevo dire. Sì. hanno subito, che abbiano subito una grave violenza. I giocatori del Genoa, è vero che abbia subito una umiliazione profonda tutto il Genoa, tutto il calcio italiano, tutti i tifosi, tutti quanti. Io stesso mi sento umiliato di fronte, anche di fronte agli interventi come quelli di prima, in tutta onestà, perché offendono un minimo l'intelligenza, non tanto mia quanto degli ascoltatori, però continuo a chiedermi chi entra in uno stadio, secondo me, ha pari diritti rispetto a tutte le altre persone che ci sono lì, no? Io continuo a pensare questo, quindi abbia tutti i diritti anche di fischiare la sua squadra o di sventolare un panno bianco come fanno in Spagna o di andarsene a casa o di non andare più. Ma nessuno di tutti quelli che entrano in uno stadio ha diritto di entrare in campo, nessuno di tutti quelli che entrano in uno stadio, nessuno ha diritto di, a maggior ragione, interrompere una partita. Avete in collegamento telefonico con Sky, volete sentirlo? Utilizzare lo stadio come una realtà in cui perpetrare delle violenze non è assolutamente possibile, quindi rappresentano veramente l'immagine peggiore. Parlano di maglia, ma loro non sanno che cosa sia la maglia, quindi bisogna assolutamente fare due riflessioni. Una sarà fatta ovviamente a livello di ordine pubblico da parte dei soggetti che hanno la responsabilità della gestione dell'ordine pubblico, e noi siamo sempre grati al Ministero dell'Interno per quello che ha fatto in questi anni, che ha fatto fortemente diminuire gli incidenti allo stadio, e l'altro ovviamente della giustizia sportiva. Però è stato anche un grave errore togliersi la maglia, cioè si può anche sospendere una partita per un atto di violenza, ma non si può dare soddisfazione a chi utilizza la violenza per umiliare, voglio dire, il mondo del calcio, non i giocatori del Genoa. Questo è condivisibile. Questo è condivisibile. Salvatore Sanzo, che è un grande sportivo, è un giornalista appassionato, esperto di calcio per Sky. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera. Ci siamo, ha ragione Abete, che hai sentito sulla tua emittente ora, ha ragione Abete, non, quelle magliette non dovevano essere consegnate. Il calcio non doveva togliersi la maglia in segno di umiliandosi davanti a questi. Sì, direi di sì. Ora oggi ho potuto, francamente, seguire poco e ho sentito anche male purtroppo la conversazione, però da quello che mi hai detto tu, direi proprio di sì. Il calcio deve dare l'esempio sempre. Ieri per esempio l'ha dato, a mio parere, con l'ennesima dimostrazione di affetto nei confronti di Pier Mario Morosini, e lo deve dare sempre, perché tutti vediamo il calcio, tutti siamo appassionati di calcio, i giocatori sono sempre in prima linea, quindi, come dire, onori ma anche qualche onere. Sicuro. La giornata di ieri in Serie B en passant così è stata di quelle interessantissime, con la sconfitta del Sassuolo. La sorpresa più eclatante è proprio questa, la sconfitta del Sassuolo in casa contro il Gubbio. Francamente non se l'aspettava nessuno. Voglio anche aggiungere un piccolo mezzo passo falso della Sampdoria, che avrebbe potuto approfittare del 6-0 in casa Pescara a Padova. È chiaro, insomma, è un campionato molto bello, che sarà interessante fino alla fine, quindi diciamo che da un punto di vista degli appassionati sarà entusiasmante, però è anche molto altalenante. Penso che soltanto il Torino abbia mantenuto sin dall'inizio un andamento molto... Un passo costante, sì. Sì, direi di sì, perché anche il Verona, a fronte di rendimento in casa straordinario, con le 12 vittorie consecutive, invece in casa ha conquistato soltanto 4 punti nelle ultime 8 partite, per cui deve cercare anche il Verona stesso di cambiare registro, soprattutto in trasferta. Certo. Invece al piano di sopra, come leggi la crisi del Milan? Milan sgonfio quello di oggi, poi insomma ritireranno fuori altre 1000 volte Muntari e quel gol fantasma, però se giochi questo tipo di partite con Fiorentina e Bologna, poi secondo me, leggendolo in maniera un po' sportiva, vengono a cadere anche questi alibi. Ma io devo dire che sì, insomma, chiaramente quei 3 punti, quei 2 punti in più e quindi il punto in meno della Juve sono importanti, questo sì. È innegabile, soprattutto in quella fase del campionato, sì. Erano sicuramente era una fase cruciale come lo è questa, però non c'è dubbio, però poi perdi in casa, esatto. Con la Fiorentina e pareggi col Bologna, insomma. Sì, no, è chiaro che poi alla fine, se vincerà la Juventus, possiamo ancora dire che l'abbia perso il Milan, perché quando il Milan è comunque più forte della Juve complessivamente, questo l'ha riconosciuto anche Antonio Conte più di una volta, sei sopra, sei in vantaggio in classifica, sì, perdi queste due occasioni in casa, poi è chiaro che non hai più da recriminare, invece diversamente sarebbe stato se ti fossero mancati quei due punti, allora sì, però l'occasione l'ha persa più il Milan, questo è fuori discussione, però c'è da dire che la Juve sta meritando, perché non soltanto la grinta ma anche la qualità del gioco che abbiamo visto nel corso di tutta la stagione, è stata una qualità secondo me alta, per cui io penso che la Juventus fino ad oggi stia assolutamente facendo cose straordinarie. Ma guarda, è una delle poche squadre che mi divertono come stile di gioco. Io mi diverto a vedere partite della Juventus, mi sono divertito, adesso non più tantissimo, a vedere partite dell'Udinese, mi sembra anche l'Udinese un po' consumata fisicamente, qualche partita della Roma, diverse partite del Napoli, soprattutto in Europa, queste sono le squadre che mi hanno divertito in questa stagione. Sì, la Juventus però complessivamente più di tutte, perché guarda, io ho in mente la partita dell'andata Juventus-Milan, dove per 90 e passa minuti veramente la squadra di Conte fu incredibile, un pressing ossessionante ed ossessivo per gli avversari soprattutto, ma queste sono le squadre di Conte. Io mi ricordo anche l'anno scorso a Siena, mi ricordo anche a Bari, c'è un allenatore che dà tanta carica, quindi direi che ha veramente tanti meriti sulla classifica della Juve. Poi ripeto, sì, dici bene, tante squadre hanno dimostrato di essere buone squadre, sì, ma però il senza la costanza poi lo vediamo, cioè, no? Ma sicuro. Un'ultima domanda, ma era un po' difficile, tutto questo casino delle scommesse può incidere sulla cammino della Juventus secondo te? Ma sul cammino della Juventus credo di no, spero di no, nel senso che ieri in conferenza stampa Conte per l'ennesima volta ha detto che è molto tranquillo. Certo, insomma, se fosse vero quello che ha detto Carobbio, andrebbe di fronte al codice della giustizia sportiva e quindi potrebbe incorrere nella squalifica, però come dire, è tutto da provare, è tutto da dimostrare. Ad oggi conosciamo soltanto, io ho letto soltanto qualche riga sui giornali con le testimonianze di Carobbio, ecco. Mi sembra che forse da un punto di vista mediatico si siano empatizzate anche troppo, no? Perché bene o male le ha detto un calciatore che insomma è nel mezzo di questo calcio scommesse. Una pagina bruttissima, però ecco, io sono sempre per arrivare in fondo ai giudizi, è come quello che viene indagato. No, è già sul giornale ma colpevole. Sai meglio di me che viviamo in un paese nel quale non solo gli ultra decidono quando si gioca e quando no, ma nel quale molto spesso processi non solo sportivi si svolgono sulla pubblica piazza. Questo. Sì, detto questo, ecco, sarà probabilmente un calcio scommesse, cioè una vicenda che non finirà domani, ma che probabilmente ci vorrà anche ancora molto tempo, anche se poi la stessa sede del calcio giustamente vorrebbe invece accelerare i tempi, perché poi le classifiche sono fondamentali anche per l'iscrizione. Diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto d'estate le prove generali e quest'anno c'è la recita, facciamo così. Sì, sono d'accordo, sì. Sono d'accordo, no, speriamo comunque che veramente non basta, finiamola qui, perché mi sembra già una pagina vergognosa del nostro calcio. L'ennesima, grazie Salvatore, buon lavoro. Grazie a te, grazie, ciao, buona serata. Grazie Salvatore Sanzo, di nuovo ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, insomma anche un sacco di messaggi, 349 238 6666, poi avremo anche i vostri post su Facebook, sulla nostra pagina di Facebook, i vostri commenti su Twitter, eccetera, quindi tutti i mezzi di comunicazione disponibili Domanda, scrive Paolo da Losanna, perché se io che sono una persona normale facessi un quinto di quello che hanno fatto i delinquenti ultra del Genoa, finirei col non vedere più un evento sportivo dal vivo per i prossimi 10 anni, e loro saranno al proprio posto la settimana prossima? Questa è la domanda di Paolo, cui io non so rispondere. Simone da Verona, buonasera. Buonasera, sono Simone da Verona, volevo tornare a parlare di calcio giocato. Volentieri, purtroppo oggi volentieri, è stata una voluta pagina, però volevo porre una domanda sulla Coppa Campioni. Volevo chiederle, secondo lei, se nelle scorse settimane non si era già un po' preventivata una finale tutta spagnola Real Madrid-Barcellona, che invece alla prova di fatti nel campo giocato potrebbe veramente riservare la sorpresa Bayern Monaco-Chelsea, soprattutto perché il Bayern Monaco giocherà in casa, sì, quindi giocherà alla morte per arrivare all'Allianz Arena, e Chelsea con la cura di Matteo non lo vedo ma proprio che una squadra così matarasso. No, ma guardi, più che cura di Matteo è un Barcellona che, e poi ne parliamo, è un Barcellona che mi sembra stia da certi punti di vista mostrando un po' la corda. Comunque non mi sembra un Barcellona molto brillante in questo spicchio importantissimo di stagione, ma dei segnali li avevamo già avuti, anche la vittoria risicata una settimana fa con quel rigorino molto discusso con il Malaga, poi appunto la sconfitta non preventivabile in Champions League con il Chelsea. Io credo ancora che vedremo una finale tutta spagnola, che vedremo un nuovo remake del classico all'Allianz Arena. Certo è che insomma, tra i due confronti il più equilibrato è certamente quello del Real Madrid, perché il Bayern di Monaco, che pure non ha avuto una grandissima stagione, è una squadra che come organico ha tutte le possibilità e le potenzialità per poter vincere la Champions League. Sul Chelsea io non avrei scommesso moltissimo e continuerei a non scommettere moltissimo, però sarebbe divertente anche vedere un bel Barcellona, un bel Bayern Monaco-Chelsea con Mourinho e Guardiola, magari a guardarseli insieme in TV. Non credo, 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire fino ancora una mezz'oretta, fino alle 19. Maurizio da Genova, poi Emilio da Padova. Dica Maurizio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo raccontarle intanto ho telefonato in realtà per una previsione sulla partita di questa sera Juve-Roma. Sì. Credo che per la Roma sia una magnifica occasione. Sì, lo è. Lo è, perché vista la classifica direi che la Juve deve vincere. La Roma è una bella squadra di palleggiatori, potrebbero infilarla, e non è che sia un auspicio il mio, però direi che vista la rivalità, no, visto Ramon Turone, sì, visto tante cose, potrebbe essere una buona circostanza per la Roma per far punti, andare in Europa League per noi per avere un campionato ancora fino all'ultimo minuto coinvolgente. Sicuro? Mi sembra un po' fragile la Roma nel complesso per la rabbia e la compattezza e la solidità anche fisica della Juventus, però certamente sarà una partita interessante anche per quello che la Roma può dire dal punto di vista tecnico, certo. Così un auspicio, non è neanche un auspicio, ma potrebbe insomma verificarsi, direi che potrebbe essere una delle circostanze. Oggi io, che sono tifoso della Samp, telefono da Genova, ero allo stadio trascinato da un mio amico genuano, il mio dentista, mi porta allo stadio, vado a vedere Genoa-Siena. Sì. Niente, incredibile il ricatto, ti fanno togliere la maglietta, non siete degni della maglia, poi Giuseppe Sculli, lui no, lui uomo della Locride, parte, va sotto dal tifoso, gli dice no, io sono degno di questa maglia, e siano degni i miei compagni, fateci rimettere la maglia e finiamo sta partita. E oggi è un caso di antropologia fantastico, fantastico. Penso che Mughini stia suonando il violino in questo momento. Di antropologia, antropologia, questa è antropologia, non c'è nulla di psicologico, questo è, è antropologia. Quindi da una parte i giocatori, dall'altra gli animali, no, l'istinto. È l'istinto, non... No, ma guardi, a me non sembra un caso di antropologia, a me sembra uno schifoso caso italiano, mi sembra semplicemente questo. Non so se sia qualcosa di antropologico, mi sembra una schifosa storia calcistica che abbiamo visto tante volte, quindi non so se è antropologia anche quella del derby di Roma che non viene fatto giocare dai tifosi, non so se è antropologia anche il solito rituale, ma è successo anche alla Sampdoria l'anno scorso, no? Si ricorda con gli schiaffi all'allenamento e le udienze di Palombo, le molteplici udienze di Palombo presso i capi della tifoseria. È successo, vedo parlare ora del Piero, mi ricordo anche del Piero con le orecchie basse a colloquio con i signori di nero vestiti, perché con loro bisogna parlare. Ma chi l'ha detto? Ma perché? Perché? Perché? Qualcuno mi deve rispondere a questa domanda. Perché con questi bisogna parlare? In Italia, con questi bisogna avere una trattativa. Perché? E di chi è la colpa? No, mi dica. Sono vuoti. Una sola cosa, eh? Perché i nostri stadi sono vuoti? Non vorrei risponderle con un'altra domanda. Ah. Il perché è anche la conseguenza della quale la viviamo tuttora. Gli stadi in Italia sono semideserti. Mm. Un motivo ci sarà. Perché uno va, non so, lo Stamford Bridge, sì, va a vedersi una partita in Inghilterra, gli stadi sono pieni, tutti seduti, educati, eccetera. Mm. Anche loro ebbero i loro problemi. Anche loro ebbero i loro problemi e seppero risolverli in maniera, non dico da extraterrestre, in maniera normale e civile, cioè, secondo i principi di civiltà di una società che deve essere moderna. Quindi da noi gli stadi sono deserti, non credo soltanto per la violenza che ci aleggia, ma per molteplici motivi. È difficilissimo andare ad uno stadio, ti obbligano ad essere schedato con questa roba che è la tessera del tifoso, che per me è un'aberrazione, e quindi ti obbligano a schedare te e tuo figlio, magari, se ce lo vuoi portare. Poi sono cari, sono scomodi, offrono tutto sommato uno spettacolo non così appassionante. Ci sono molti motivi, tra i quali anche il fatto che siano pessimamente abitati e pessimamente popolati, ma non è questo, credo, l'ultimo motivo per la desertificazione dei nostri stadi, e non credo nemmeno al fatto che sia l'unica ragione sia la televisione. Io non ci credo, tant'è vero che la televisione c'è anche in Inghilterra, in Germania e in tutti quegli altri paesi, dove in Spagna, visto che stiamo per andarci, dove gli stadi invece sono esauriti, non solo il Camp Nou di ieri sera. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Oggi ne avremmo di cose da dire. Però vorrei che tu mi raccontassi com'era il Camp Nou al momento dell'uscita dal campo dei giocatori. Alla fine della partita? Sì. L'umore è, diciamo, nero, però forse grigio, direi, nel senso che secondo me un po' se l'aspettavano. Ah. C'era meno determinazione questa volta, meno tensione, meno. E poi la partita stessa ha portato i tifosi, tra l'altro travolti da un diluvio universale, un po' a pensare che, insomma, che non ce n'era. Mm. Vedere un po', secondo me, già la formazione, i cambi, le difficoltà di giocatori simbolo come Xavi, Messi, Iniesta, aveva quasi preparato la platea a un finale di questo tipo, insomma. Ieri... E d'altra parte, vuol dire, non si può vincere sempre, secondo me un po' lo sapevano anche loro. Non si può vincere sempre, ma neanche magari perdere in questo modo una partita così importante, magari ne puoi perdere un'altra. Però ieri io, sai, ho dichiarato il mio tifo per il Real Madrid e per Cristiano Ronaldo su Messi, ieri pomeriggio. Naturalmente sono stato additato come provocatore, no? Perché certo, stavo dalla parte, certo, del diavolo e non di quella dell'acqua santa, ma confermo la mia felicità per questo risultato, non è che mi tiro indietro. Dopo averlo beccato. Ti dico sinceramente, vivendo la quotidianità del murignismo e di tutto quello che comporta, non riesco a tifare per il Real Madrid o ad avere una simpatia, perché sono troppe le esagerazioni, le tensioni, insomma il malumore che crea non può essere trascurato. e quindi, e comunque poi insomma il Barcellona gioca un bel calcio ed è insomma, poi alla fine io resto neutrale, nel senso che sono qua e anzi penso che sono in una buona posizione, nel senso che entrambe le squadre pensano che io sia dell'altra, quindi vuol dire che sto lavorando bene. Però Ronaldo, sì, io sono a me piace, però non si può scegliere tra Messi e Ronaldo, non lo so, io alla fine non, forse non mi interessa nemmeno. Sì. La cosa migliore della partita di ieri è che alla fine è stata una partita. Sì. Giocata in maniera perfetta da Mourinho, e sì, che appunto uno dice: ma allora, ma perché non ti impegni in ciò che sai fare? Ma perché? Ma ne abbiamo già parlato molte volte. No? Ieri ha giocato la partita che lui avrebbe sempre voluto giocare contro il Barcellona, Filippo, cosa che gli è riuscita l'anno scorso nella Coppa del Re, cosa che gli è riuscita perfettamente ieri sera, cosa che gli riuscì con l'Inter. Lui sa perfettamente come si affronta il Barcellona. Gli si lascia il 77% del possesso palla e si gioca una partita di grande contenuto tattico, di grande contenuto fisico, e alla fine li si castiga con le frecce, cioè, che hai, e il Real Madrid ne ha tante. Che hai una squadra fortissima, quindi lo puoi fare. Che insomma, poi gli consentano di giocare questa partita. Ha fatto il Chelsea con una squadra meno forte perché non lo devi fare tu. Certo, ma che poi gli consentano allora di giocare questa partita è una cosa diversa. Perché devi mettere, devi influire schierando alti in top terzino o, no, o mettendo Pepe a centrocampo e via di questo passo. Insomma, ieri è rimasto, lui ha fatto un compromesso secondo me con la squadra, ha fatto giocare Osil, mentre no, lui voleva fare un'altra scelta, e ha lasciato il suo segno portando comunque con entrava in campo e tutto, però ha chiesto un sacrificio ai suoi, però ha fatto giocare il Real Madrid come doveva. E io alla fine comunque ti dico, quello che mi resta di ieri è che è stata una partita, non ci sono state, c'è stata qualche piccola scena, ma insomma poco. E infatti poi secondo me l'immagine migliore è vedere Xabi Alonso da solo in tribuna a fine partita, no? Che è tornato lì a sentirsi la musica mentre aspettava che gli altri finissero la doccia. Finalmente l'atmosfera rilassata. Questo secondo me è quello che poi uno vorrebbe vedere, insomma. Ecco. Sì, non c'è bisogno di mettere le dita negli occhi, dai. No, assolutamente non c'è bisogno di mettere le dita negli occhi, questo è evidente. Tra l'altro non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di mandare Caranca in conferenza stampa di nuovo ieri sera. Lì io non mi sono potuto esimere da criticare, cioè voglio dire, ma perché? Cioè, a parte, è chiaro che non poteva venire lui dopo aver vinto, perché sennò sarebbe stato abbastanza patetico, però nella vigilia c'è tutta questa tensione, io l'ho scritto oggi, l'ha creata lui, insomma, nel momento in cui lui fa questa piazzata dopo il pareggio a Villarreal, insomma, quando poi non era successo nulla, è inutile poi dopo che continua a insistere dicendo che qua c'è un complotto contro Real Madrid, quando sappiamo bene c'è questa squadra come ha costruito la sua storia, insomma, lì sbaglia. Allora che Caranca debba fare 47, anzi con quella di ieri 48 conferenze stampa, mi sembra veramente un'esagerazione, non va bene. C'è anche un interesse per uno spettacolo che è enorme, cioè c'erano 25 telecamere l'altro giorno a sentire Caranca, le sue stupidate, insomma. No, ma questa è evidente che è una mancanza di rispetto, ma lui se ne frega discretamente di qualche volta ma colpevolmente, mica dico che fa bene. No, in questo senso ha torto, poi per il resto ha torto, non c'è dubbio, non c'è dubbio, fa il suo gioco. Ma è vero che ha prolungato con Real Madrid? Ma no, ma questo perché sei geniale questo? È una non notizia, nel senso che lui c'ha già il contratto fino al 2014, e già guadagna 12 milioni all'anno, per cui non c'è da rinnovare, cioè dice, ah sì, ha prolungato fino al 2014, ma ce l'aveva già il contratto. Ce l'aveva già Praticamente gli dicono, cioè la cosa dice, poi tra l'altro anche lì, vedi, l'articolo arriva dal Mundo, è fatto da due giornalisti che sono veramente diciamo i suoi fedelissimi. Praticamente dice, gli hanno dato ancora più potere, che già mi sembra anche impossibile perché c'è solo la carica di presidente insomma, a sua disposizione, non so, e no, più o meno da quello che ho capito forse guadagnano qualcosa in più i suoi assistenti, che poveretti, insomma, non, Rui Faria, per esempio, per farsi espellere 4 volte in 4 mesi, sì, mi sembra giusto, sempre, che gli dia un premio, no? Un premio, certo, sempre che resti, sempre che resti comunque. Un preparatore atletico, no, che si fa buttare fuori così con questa frequenza, no, quindi non c'è una non notizia, insomma. Sempre che resti, perché non, io a tutt'oggi non ne sono così convinto, non sono nemmeno così convinto che alla fine non si vedrà il classico in finale, come finale di Champions League. Secondo me finiamo così, Non lo so, l'unica cosa, io penso che Mourinho resti, ma non per questo rinnovo in generale, e per anche un motivo molto semplice, che non è che ha tanto mercato Mourinho con quello che costa e con quello che fa spendere alle squadre. Non ci sono più questi, insomma, non può arrivare in una squadra e pretendere, alla fine lui costa praticamente 100 milioni lui più 100 di mercato, insomma. E per cui no, secondo me resta. Adesso poi vediamo invece cosa succede dall'altra parte, mi sembra ancora più interessante. Cosa succede? Il silenzio di Guardiola alla fine gli si è rinfacciato, insomma. E mi sembra palese il disagio di una squadra che non sa quello che farà il proprio allenatore. Sì. E si vede, insomma. Sì, vediamo, sì. Vediamo come va. La prossima domenica ne sapremo di più, perché a parte che si può addirittura già segnare la Liga ufficialmente, però le due partite di Champions ci diranno tanto, perché ma il Barcellona visto ieri sera rischia, quanto rischia col, sì, Chelsea secondo te? Tanto? Perché il Chelsea può far gol, e se il Chelsea fa gol dopo il Barcellona deve far 3, e alla fine il Barcellona i gol li fa solo Messi, se non segna Messi spento io. Ieri sera, poverino, cioè, voglio dire, questo comunque ha fatto 63 gol in una stagione, che sono più di quelli che fa una squadra normalmente. Però se non c'è lui, allora Villa già lo criticavano, poi si è rotto e va bene. Sanchez comunque è un pesce fuor d'acqua e comunque non è neanche sempre gioca. Fabregas aveva fatto qualcosa come 14 gol nelle prime 20-22 partite, nelle ultime 21 non ne ha fatto uno, quindi è in difficoltà. E allora alla fine chi li fa i gol? Messi. Sì, però se non li fa lui non li fa nessuno, e questo è il problema. È un bel appigliarsi, meglio appigliarsi a Messi che, no? Sicuro, meglio appigliarsi a Messi che a chiunque altro. Comunque ha una responsabilità enorme, ieri si è visto, era molto frustrato, insomma. Comunque, poi sai, anche da dire, due cose le ha fatte e le hanno sprecate i compagni, cioè una è andata alla fine, hanno fatto gol, l'altra Xavi l'ha sprecata. Vediamo con il Chelsea, io la vedo molto complicata. E sarà una settimana interessante per questi due confronti, molto più aperti di quanto si potesse immaginare. Soprattutto, ripeto, quello del Barcellona, perché comunque il Bayern Monaco mi sembra un competitor attendibile per il Real Madrid e per una vittoria finale in Champions League. Grazie Filippo, ne parliamo tra 7 giorni. Io ho altri ascoltatori in linea, 800 24 00 24 e comunicazione di servizio, altri 8 minuti, tutti per voi. Filippo da Milano, buonasera. Sì, buonasera signor Gente, grazie per avermi chiamato, grazie per la possibilità. Ma in riferimento a quanto si diceva, soprattutto dopo gli episodi di Genova, da cui purtroppo, ahimè, ho dovuto partecipare, essendo tifoso genovano, ho visto quello che è successo. Ma se è un problema, credo che sia un problema di cultura, cultura nostra generale. Se la Lega si permette di dichiarare che l'inizio del campionato ad agosto non porterebbe la gente agli stadi, quando in realtà la gente agli stadi non ci va durante l'anno, come succede in Inghilterra? O si dà una drastica cambiamento a quello che può essere le nostre abitudini, o credo che da qua non usciremo mai. Come lei diceva, la tessera del tifoso, io che ho un figlio di 14 anni e mi sono visto costretto a tesserarlo per poter andare allo stadio, quando in realtà siamo due persone normalissime, capisce bene che il problema capisco bene che se la tessera del tifoso ce l'avevano in tasca anche quelli che erano arrampicati sul tunnel del sottopassaggio, abbiamo visto quanto serve, no? Abbiamo visto qual è l'utilità della tessera del tifoso, se ma ce l'avevano in tasca quelli che erano arrampicati, quelli che trattavano con Rossi e con Sculli. Sicuramente la testa del tifoso, le persone che sono entrate allo stadio l'avevano, quindi saranno sicuramente rintracciabili allo stadio. Ma perché serviva, ma Filippo, no? Lo so, però ma questo lo vediamo, su questo mi devono ancora convincere. Ma secondo lei serve la testa del tifoso per conoscere quelli lì? Cioè, ma no, signor Genta, io credo che dalla mia persona lo Stato sa perfettamente chi sono e che cosa faccio, senza necessariamente avere la tessera del tifoso. Sì, esatto, ma ripeto, la tessera serve la tessera del tifoso per individuare quelli che invece erano... Ecco. Non è questo, ma non è questo il deterrente. Appunto. Assolutamente no. Appunto, quindi abbiamo avuto una riprova dell'utilità della tessera del tifoso, ce l'abbiamo avuta anche oggi, no? Filippo e suo figlio di 14 anni in tasca ce l'avevano, quelli che erano arrampicati sul tunnel del sottopassaggio magari ce l'avevano anche loro, o magari l'avevano persa, o magari insomma magari l'avevano dimenticata a casa, non lo so. Senza è impossibile individuare quelli che erano arrampicati lì con che ha visto tutto il mondo o che vedrà tutto il mondo con nostra grande gioia. Marco, Genova. Buonasera, sono Marco. Buonasera. Ascolti, Marco. Sì. Io volevo fare un riferimento alla mia squadra del cuore, cioè al Milan, che anche diciamo la mia tifoseria ha una feccia purtroppo che ha contestato negli anni scorsi il capitano. Quindi ogni squadra ha il suo gruppo, diciamo, di incappucciati. C'ha il suo gruppo di incappucciati, certamente. E ricorda Paolo Maldini, dopo tante battaglie, è stato duramente contestato, proprio perché non ha voluto questi rapporti, non ha voluto abbassare le orecchie. Ma l'ho ricordato anche prima, mi pare. L'ho ricordato anche prima, quando io ho detto che tutti i capitani di Serie A, di Serie B e poi per le serie minori non saprei, ma sicuramente succede anche lì. Tutti i capitani, compreso Zanetti, compreso Totti, compreso Del Piero, compresi tutti quelli che volete aggiungere voi, si devono periodicamente sottomettere ai colloqui con quelli che lei definisce gli incappucciati. E c'è un ascoltatore che mi ha corretto, Paolo Maldini no, e io ho detto, e infatti abbiamo visto quale saluto gli ha tributato San Siro, o la tifoseria più calda di San Siro, nel giorno in cui ha salutato il Milan. Questo è un episodio che ho ricordato anche prima. C'è chi scrive, c'è anche il popolo degli SMS, naturalmente, 349-238-6666. Pazzesco quello che è successo, dal frequentatore di curva e ora di stadio. Penso ci sia una sola soluzione: galera per gli ultra e i loro protettori, calciatori compresi, e campionato sospeso. Non so, un po' estremistico, non avrei idea, so solo che ci sono delle leggi che dovrebbero in vigore, leggi dello Stato naturalmente, che dovrebbero contemplare delle sanzioni abbastanza rigide nei confronti di chi agisce come quei signori di Genova hanno fatto oggi. Roberto Milano, buonasera. Sì, buonasera. No, io chiamavo perché volevo parlare di questo fatto successo oggi, nel senso che sono assolutamente contro questi personaggi che intervengono, falsano risultati, sport e quant'altro. Beh, d'altra parte solo qualche mente malata può essere a loro favore. No, certo, solo che il mio intervento voleva ricordare che in Italia è un paese curioso, perché a volte ci scagliamo contro gli ultras che sicuramente hanno questi comportamenti, però ci dimentichiamo che uno dei decreti che gestisce le sanzioni per i tifosi è il cosiddetto decreto Pisanu, che era il ministro degli interni prima dei Maroni, quello che ha fatto la tessera del tifoso, che tra l'altro è stato un fallimento a quanto vediamo. Comunque il ministro Pisanu è la stessa persona che nelle intercettazioni di Calciopoli e Moggiopoli chiedeva i favori a Moggi per la Sassari Torres degli arbitraggi a favore, perché erano in situazione di retrocessione. Sì. Quindi io vorrei, che non è punibile, nel senso che io posso telefonare a una persona e chiedere cose di questo tipo, però sicuramente se un ministro della Repubblica... Cioè lei dice le sanzioni che sono state progettate da uno che telefonava a Moggi per avere favori. È una lettura un po' larga, che però magari, ma no, non credo che ci possa far riflettere. Mi sembrano due piani molto, molto distanti, molto differenti, sebbene di malcostume. Ci fermiamo qui. Alessandro Da Luca purtroppo non riesco a farlo parlare, ma domani ci sarà Gigi Garanzini alle 2 e quindi avrete modo e tempo. Ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia, e vi do l'appuntamento alle 8:30, quando invece parleremo di basket, di tutte le partite si giocheranno, anzi si stanno giocando senza problemi, e vi racconteremo il campionato dalle 8:30 alle 9. Ciao a tutti.